signori amici dell'umanità. Gennaio 2012, gli scienziati rivelano al mondo che il 21 dicembre un asteroide colpirà la Terra distruggendola. La sola possibilità di salvezza è riservata a 24 persone. Sono i 24 fortunati che parteciperanno a... L'ultimo reality dell'umanità. Lo so, signora Fantoma. Come no? Sì, signora Fantoma, lo so. Scusi, signora Fantoma, un attimo. Sivana, abbassa la radio. E come? Abbassa la radio! Sì, va bene, ma me l'aveva detto lei di lasciarla accesa. Sì, ma sono con una cliente. Va bene. Signora Fantom, eccoci, sì, dicevamo... Ah sì, l'hanno detto gli scienziati. Ma che quelli ogni tanto sbagliano, cosa crede, signora Fantom? Il mondo non finirà il 21 dicembre. E comunque che se finisse... Vabbè, facciamo così. Mettiamo che il mondo finisca davvero il 21 dicembre. Restano comunque circa 11 mesi prima di quella data, no? E se posso darle un suggerimento, non vivrei i miei ultimi 11 mesi privo di tutele. Come? Una polizza contro la fine del mondo? Ma sempre lì arriviamo, signora Fantom! Ma no, aspetta, signora Fantom! Signora! Ha riattaccato. Mi scusi, guardi che è Fantom... con la N, eh? Non Fantom con la M. Ah sì? E allora? Sì, sarà per quello che non si fida a firmare la polizza, no? Ma quella è sorda, ma cosa vuoi che capisca? La M, ma cosa ci dà M adesso? No, la M è una nasale bilabiale e la N una nasale velare. Ma Silvana, ma come fa a sapere tutte queste cose? Ho appena finito un corso serale di glottologia. Complimenti. Ma col mondo che finisce tu passi le serate a studiare glottologia? Ma sì, è lo studio sull'origine globale del linguaggio. Silvana, alza la radio. Va bene. Radio 24. La pressione si sente. Sono le... Che ore sono? GR 24 ore. Buongiorno a tutti, da Fabio Cantadore e dalla redazione di GR 24 ore. Cominciamo subito dalle notizie dallo spazio. A 12 giorni dal Capodanno Nero continua senza ostacoli la corsa dell'asteroide Frank Zappa 3834 verso la Terra. In questo preciso momento l'asteroide sta attraversando la costellazione dei Gemelli. Le previsioni degli scienziati di tutto il mondo trovano una triste conferma. Il prossimo 21 di dicembre l'asteroide colliderà con la Terra e il nostro pianeta ne uscirà completamente distrutto. E ora cambiamo decisamente argomento e parliamo di televisione. La casa di produzione Endworld ha dichiarato oggi che è stato raggiunto il primo miliardo di iscrizioni al suo show, l'ultimo reality dell'umanità. Questo è il titolo. Oggi infatti è stata caricata in rete la miliardesima clip. Endworld ricorda a tutti che il tempo delle iscrizioni scade il 20 dicembre. I 24 più votati troveranno rifugio in un luogo sicuro ma ancora segreto e saranno i protagonisti dell'ultimo reality dell'umanità. Non dimenticate quindi di registrare e mandare la vostra clip alla Endworld. Nome, età e che cosa fai? Ciao, sono Frankie I Energy. Ho 40 anni, faccio il rapper. Tre aggettivi per definirti. Energetico, simpaticissimo, un po' lunatico. Perché pensi di essere la persona giusta per far parte dei 24 eletti che si salveranno dalla fine del mondo? Penso di poter dare un contributo sostanziale a uno show che si promette come uno dei migliori che l'umanità abbia mai visto. Endworld. Gentile signora Fantom. Fantom. Silvana, ho capito. Adesso diamoci un taglio, per favore. Oltretutto è una mail. E poi col tablet nuovo qui. Non è proprio... Comunque... signora... Tutto incluso. Distinti saluti. Anzi, distinti e cari saluti. Max Dergano, in via. Ecco. Ma cos'è successo? L'ho mandata o non l'ho mandata? Silvana? Sì? È sparito tutto. Cosa? Ma come che cosa? Devo mandare la mail alla Fantom ed è sparito... Silvana, Per favore, è sparita anche la N, la M e tutto quanto. Per favore. Come si fa adesso? Senta, non si preoccupi, signor Tergano, le faccio vedere io. Guardi, cioè? Non sparisce mai niente, stia come tranquillo. No, qui... Guardi, le faccio vedere dunque. Sì. Adesso deve scendere. Sì, quella... scendo. Ecco. Sì, e poi ho capito. Silvano, ho capito. Sì. Basta fare così. Tac, tac e tac. Ma cos'è sta roba? È partita l'applicazione della Endeavor per registrare la clip. Ma io non sapevo nemmeno di averla. Ma il signor Tergano mi aveva chiesto lei di farle l'abbonamento all'inclusive. Sì. Comunque adesso come usciamo da qua dentro? Perché non la registra anche lei la clip? Già che c'è. Io per esempio l'ho già fatto. Ma la clip, reality, mi sembra tutta una buffonata sta storia. Io non li guardo nemmeno i reality. Ma signor Tergano, l'ultimo reality dell'umanità non è un reality come gli altri. Ma lo so. È l'unica speranza che abbiamo per salvarci. Sì, sarà... Vabbè, com'è che si fa... I tre aggettivi, quelle cose lì... Esatto, si comincia da quelli. I tre aggettivi. Lei, per esempio, con quali tre aggettivi si descriverebbe? Boh, adesso guarda, non lo so proprio. Devo mandare la mail alla Fantom. Ton. Silvana? L'ultimo reality dell'umanità. Che cosa succederà adesso? Riuscirà Max Tergano a mandare la sua clip? Il mondo finirà davvero il 21 dicembre? E visto che è venerdì, l'ho sposto la macchina per la pulizia strade. Lo scoprirete sintonizzandovi domani alla stessa ora su Radio 24 per il prossimo catastrofico allestimento del... L'ultimo reality dell'umanità. Un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen.